giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dopo la protesta per la chiusura dei consultori a Trieste, scendono in sciopero i dipendenti delle due strutture superstiti. Altissima l'adesione, praticamente il 100%, fra il personale dei centri di Roiano e di Valmaura, che hanno tenuto un presidio a San Giacomo. Meno personale nelle strutture sanitarie, meno medici di base, liste d'attesa più lunghe. Queste le cause per la CGIL dell'aumento delle aggressioni a medici e infermieri. Nel 2023 sono state 588, il 20% in più dell'anno prima, e nell'ambito di Asugi sono raddoppiate. Ancora una truffa a danni di anziani a Gorizia: arrestato un 22enne che si sarebbe appropriato, con l'inganno, di quasi 10.000 euro in gioielli di una coppia di anziani a cui aveva detto che sarebbero serviti per liberare il figlio in stato di arresto. Quattro imprese edili sono state sospese dall'attività a seguito dei controlli sul lavoro irregolare svolti dall'ispettorato del lavoro di Gorizia, contestate 14 prescrizioni per ammende e sanzioni per oltre 120.000 euro per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il progetto nazionale COVERT sulla prevenzione e il contrasto degli attacchi informatici, coordinato dall'Università di Udine, ha vinto un bando PNRR da 1,5 milioni di euro. Triestina-Benevento 1-1 ieri sera al Rocco, e l'allenatore degli alabardati esprime il rammarico per l'occasione sprecata. Dopo un brillante primo tempo, il calo di ritmo che ha aperto il varco ai sanniti. La cronaca live di Stefano Nazzi, che dopo i podcast riempie i teatri raccontando casi celebri di Nera. In scena al Rossetti di Trieste ieri sera il massacro del Circeo del 1975. Lo abbiamo intervistato. A Trieste torna l'ormai tradizionale festival dedicato al compositore francese Erik Satie. Concerti e mostre per ricordare, a quasi 100 anni dalla morte, la sua musica d'arredamento, come Satie amava definirla, che si ascolta di sottofondo alle proprie attività, ma che è difficile da dimenticare. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Livia Liberatore e Antonio Cagliazza. Sciopero e presidio di protesta per i dipendenti dei due consultori triestini di Roiano e di Valmaura, che stamattina si sono riuniti davanti alla chiesa di San Giacomo. Adesione totale, ha scioperato il 100% del personale dei due consultori triestini di Valmaura e Roiano. La protesta a 110 giorni dalla chiusura delle strutture di San Giacomo e San Giovanni. Una riorganizzazione che, secondo CGIL, lavoratori e cittadini, ha portato disagi e disservizi da imputare anche ad una riduzione d'orario. Da 4 consultori aperti 8 ore si è passati a 2 per 12 ore, ma in realtà l'accoglienza al pubblico è sulle 10 ore, sottolinea la CGIL. Una rete di servizi interrotta perché rimangono isolati dei quartieri per la difficoltà a raggiungere le strutture e per le tipologie d'orario. Francesca Fratianni, CGIL. Si allungano le professionalità, e quelle che hanno un'attività che è più ampia la mattina vengono messe nel pomeriggio, dove hanno praticamente non è utile l'attività. Per esempio l'assistente sociale nel pomeriggio non può avere i collegamenti col comune o con i servizi necessari per l'utenza. Il rapporto consultori-popolazione dovrebbe essere uno ogni 25.000 abitanti nei centri urbani, secondo la legge 34 del 96. I conti non tornano. CGIL e FIAS fanno partire anche una petizione rivolta al Presidente della Regione e Giunta per rivedere le decisioni prese. Fabio Potocnik, FIALS. Si sono accorpate i servizi, ma di fatto anche le stanze che dovevano avere a disposizione verranno assegnate alle prossime COT. Avranno 3 stanze in meno di quelle assegnate di recente. Noi chiediamo di rivedere l'organizzazione in modo tale di dare una risposta più diretta e più concreta ai cittadini. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il calo del personale medico infermieristico è il segno tangibile di una cronica carenza di programmazione a livello nazionale e regionale, denuncia con un comunicato Orietta Olivo, segretaria generale della funzione pubblica della CGIL. Tra i fattori che incidono sullo stress e sulla fuga del personale è anche l'aumento delle aggressioni. I casi di violenza fisica o verbale denunciati in regione nel 2023, segnala Olivo, sono stati 588, con un aumento del 20%. 1.300 rispetto ai 481 casi del 2022 e addirittura un raddoppio nell'ambito delle strutture di Asugi, l'azienda sanitaria di Trieste e Gorizia. Non crediamo che si tratti di un'escalation casuale. La crescita delle liste d'attesa, la carenza di medici di base e di servizi territoriali, le carenze di personale contribuiscono evidentemente ad aumentare la tensione tra gli utenti e i livelli di stress tra il personale, scrive la CGIL. La polizia di Gorizia ha arrestato un 22enne residente a Napoli per una truffa perpetrata nel centro del capoluogo isontino, recuperando monili in oro per un valore di quasi 10.000 euro. I fatti sono avvenuti lo scorso 15 aprile. Le vittime, una coppia di anziani che avrebbe consegnato i gioielli all'uomo a seguito di una telefonata in cui gli si chiedevano soldi o valori per ottenere la liberazione del proprio figlio a seguito di un arresto. Il 22enne avrebbe lo stesso giorno tentato altre truffe del genere attraverso altri contatti telefonici. L'uomo è stato individuato a seguito di un servizio di osservazione da parte della squadra mobile. 5 imprese edili irregolari, 4 attività sospese e sanzioni per oltre 120.000 euro. È il bilancio dei controlli svolti nel territorio di Gorizia e di Cormons dai carabinieri del gruppo per la tutela del lavoro di Venezia e del nucleo ispettorato lavoro di Gorizia. Contestate 14 violazioni delle norme per la sicurezza sul lavoro, come l'utilizzo non adeguato di impalcature e ponteggi atti ad evitare cadute dall'alto, l'omessa installazione di parapetti, impianti elettrici di cantiere non a norma, attrezzature non adeguate alle lavorazioni, documentazioni di cantiere non aggiornate o carenti. Lezioni di giustizia e di ricerca della verità per ottenere giustizia è il senso dell'incontro che stamattina i genitori di Giulio Regeni hanno avuto con gli studenti di quinta elementare delle medie dell'istituto Don Pierluigi di Piazza di Pozzuolo del Friuli, al termine di un cammino fatto in classe con i propri insegnanti sui temi della verità e della giustizia. A mezzogiorno l'inaugurazione della panchina gialla in ricordo di Giulio e di tutti coloro che ogni giorno e ovunque difendono i diritti umani. In platea decine di alunni con maglietta gialla e il colore per chiedere giustizia per Giulio Regeni. Sul palco i suoi genitori Claudio e Paola, che ringraziano scuole e insegnanti di tutta Italia. Siamo all'istituto comprensivo di Pozzuolo del Friuli, intitolato un anno fa a Don Pierluigi di Piazza, scomparso proprio il 15 maggio del 2022. Da oggi all'esterno dell'edificio campeggerà lo striscione con la richiesta di verità per il ricercatore di Fiumicello. Verità che a Roma la prima corte d'assise sta cercando di appurare nel corso del processo, finalmente partito, contro i 4 membri dei servizi segreti egiziani imputati ma assenti. Un iter giudiziario complesso e delicato, tant'è che Claudio e Paola Regeni preferiscono non rilasciare commenti. All'interno di un'area dedicata alla legalità della scuola media troverà posto una panchina gialla dedicata a Giulio. Sul palco un mosaico con il suo nome e l'albero della legalità realizzato al termine di un percorso didattico. Sulle foglie i pensieri di ragazzi di quinta della primaria e della secondaria di primo grado. Tra questi, giallo come un raggio di sole oscurato dall'ingiustizia, oppure pensare al futuro era una cosa da Giulio. L'attività didattica, con le domande degli alunni e genitori di Giulio Regeni, è poi proseguita a porte chiuse. Pozzuolo del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Si aprono oggi i termini di presentazione della domanda per il contributo pacchetto scuola del Comune di Trieste. Il contributo è rivolto alle famiglie con figli che frequenteranno nell'anno scolastico 2024-25 la classe quinta della scuola elementare, la scuola media e il primo biennio della scuola superiore, che risiedano nel Comune e abbiano una soglia ISEE non superiore a 10.633 euro. Il sussidio si potrà richiedere fino al 2 agosto sul sito del Comune di Trieste. Varia da un importo minimo di 84 a un massimo di 200 euro. L'assemblea dei soci di LEF, l'azienda digitale fondata da Confindustria Alto Adriatico e da McKinsey & Company nel 2011, ha approvato il bilancio 2023, che è stato chiuso analogamente al 2022 con numeri in crescita. Il valore della produzione sfiora i 2 milioni di euro, con un aumento del 25% rispetto all'esercizio precedente, e la prima trimestrale 2024 segna già un più 30%. La fabbrica modello della provincia di Pordenone, che di fatto vive di attività di consulenza e di servizi alle imprese, ha in previsione un'ulteriore crescita. A luglio è prevista l'inaugurazione del Plant 1, locale di circa 1000 metri quadri, sede storica di LEF, oggi completamente rinnovata e ampliata grazie ad un investimento di circa 1,5 milioni. A un anno dalla scomparsa, il comune di Udine ha inserito il nome del politico friulano Aldo Gabriele Renzulli nel famedio dei benemeriti della città. Stamattina si è tenuta una cerimonia al cimitero monumentale. Ad un anno dalla scomparsa il suo nome è stato aggiunto al famedio della città di Udine, al cimitero monumentale della città, insieme a tanti altri illustri friulani. E Gabriele Renzulli, già segretario regionale del PSI friulano e componente dell'Assemblea nazionale del Partito Socialista Italiano, consigliere regionale e deputato per 2 legislature. Renzulli ha lasciato la sua impronta soprattutto sulla sanità degli anni Ottanta, chiuse alcuni ospedali minori, contribuì a fondare la centrale del 118 e il centro oncologico di Aviano, di primo piano il suo ruolo nel caso Englaro. Così è stato ricordato oggi dall'amico e compagno Mauro Delendi, alla presenza del sindaco del capoluogo friulano, di amici e compagni di partito, della figlia Asia Ginevra, assieme alla moglie Gabriella. Io parlo dell'aspetto familiare, un grandissimo compagno di viaggio che rispecchia tutto quello che ha detto Mauro, e un grandissimo papà. Penso che mia figlia potrà fare buone scelte nella vita, perché ha avuto un grande amore da parte del papà, e anch'io, un grande uomo. Ho avuto la fortuna di condividere nel percorso che mi è stato concesso. Tanti ricordi dell'uomo politico che ha speso una vita per il garofano, quello del Partito Socialista, per i diritti civili e per la sanità. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Per celebrare il 70° anniversario della nascita della RAI, l'associazione Gli Stelliniani ricorda oggi la figura del suo primo presidente, Cristiano Ridomi, nato a Udine nel 1904 e già allievo del liceo Stellini. Ridomi fu anche giornalista e diplomatico e assunse la presidenza della RAI nel 1951, tenendo a battesimo le prime trasmissioni il 3 gennaio del 1954. Nell'aula magna del liceo alle 16 gli studiosi Stefano Perini e Andrea Romano ne tratteggeranno la biografia. Prevenire e contrastare attacchi informatici e monitorare possibili vulnerabilità della rete e dei dispositivi è il focus del progetto di ricerca nazionale COVERT, coordinato dall'Università di Udine, che ha vinto un bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, del valore di 1,5 milioni di euro. La ricerca è coordinata da Gianluca Foresti, docente di Cyber Security e Artificial Vision del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche e direttore del Master in Intelligence and Emerging Technologies. Il progetto di ricerca è sviluppato in partenariato con altri 5 Atenei, Politecnico di Milano, Università di Perugia, Link Campus University, Università di Trento e Università di Verona. Situazione meteorologica, cielo da poco nuvoloso a coperto sulla regione, ecco le temperature alle 11. A Trieste e a Gorizia 21 gradi, a Udine 19 5, a Pordenone 15 e 5, a Tolmezzo 12 e 5, a Tarvisio 11 e mezzo, a Forni di Sopra 9 gradi, a Sappada e sul Piancavallo 8 gradi, sullo Zoncolan 5, sul Lussari 4, a Grado 21 e a Lignano 19. Le previsioni per oggi: cielo prevalentemente coperto, nelle prossime ore piogge in intensificazione che saranno da moderate a est ad abbondanti verso ovest, localmente intense sulle prealpi carniche e sulla pianura al confine con il Veneto, dove saranno possibili anche dei rovesci. I semi e le talee degli alberi monumentali del parco di Miramare prendono nuova vita. Gli studenti del Collegio del Mondo Unito e di una scuola elementare hanno partecipato alla piantumazione dopo la presentazione di 2 novità editoriali sul castello. Grandi novità al castello di Miramare con la direttrice Andrina Contessa, che ci ha presentato due progetti editoriali molto interessanti, un libro fotografico di grandi dimensioni e anche un libro per bambini però non vedenti o ipovedenti, con delle descrizioni in braille, un progetto in Fieri, ma non solo. Iniziamo dai libri. I libri sono un nuovo progetto editoriale realizzato grazie a uno sponsor della ditta di Paolo Sadoc, al quale siamo naturalmente molto grati, che ci permette appunto di fare questa passeggiata nel parco visuale, un libro con bellissime foto che sono tutte recenti e che includono anche il rinascimento di questo parco dopo le iniziative prese degli ultimi anni di recupero e di valorizzazione. E oggi poi inauguriamo anche uno di questi progetti, che è veramente un progetto a lunghissima scadenza, iniziato molti anni fa quando abbiamo preso semi e talei dagli alberi monumentali e storici e li abbiamo fatti crescere in un vivaio. Adesso le piante sono diventate a grandezza tale che possono essere piantumate e le piantumiamo in una zona che si chiama Orti di Massimiliano, che inauguriamo quest'oggi e che sarà dedicata proprio ad essere il vivaio e la serra vivente del parco di Miramare nel futuro. Ci troviamo infatti in una zona molto alta del parco, finora diciamo inesplorata, e si collega ai libri di cui parlavamo prima, perché in quei libri troviamo anche una o più foto di quest'area nuova, inedita, e la cosa è molto emozionante che questi piccoli virgulti saranno piantati proprio da degli studenti del Collegio del Mondo Unito e anche da una classe elementare così. Sì, io ho pensato che Massimiliano voleva nel suo sogno far crescere in questo parco alberi che provengono da tutto il mondo. Ho pensato che sarebbe stato bello che a piantarli fossero una delegazione degli studenti del Mondo Unito, che anche loro vengono da tutto il mondo ma convivono qui per un lungo periodo, studiano e crescono, e come gli alberi hanno il futuro davanti a loro. Poi ho dato anche una missione a questa classe di bambini, di essere le sentinelle di questi alberi, perché loro li piantumeranno e dovranno venirli a trovare spesso, seguirli e controllarne la crescita, perché loro sì vedranno il futuro. Ecco, l'idea è di lavorare per qualcosa che magari io non vedrò, ma che sarà proprio per le generazioni future. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Tappa triestina ieri sera per il giornalista Stefano Nazzi, che al Politeama Rossetti ha portato il suo spettacolo Indagini Live, nato dal grande successo ottenuto dal podcast in cui si occupa dei casi di cronaca più conosciuti. In questo caso si è concentrato sulla tragica vicenda del massacro del Circeo del 1975. Sentiamo direttamente da Nazzi il perché della scelta e cosa pensa del caso Resinovic nell'intervista di Antonio Di Bartolomeo. Alcune dinamiche, alcuni meccanismi che allora erano espliciti esistono ancora oggi, più subdolamente. Per esempio, allora fu proprio esplicito il tentativo durante i processi di attribuire una sorta di responsabilità alle due vittime. E poi perché mi interessava moltissimo raccontare quello che avvenne dopo. Le coperture, le protezioni, gli aiuti che ebbero i tre condannati. Il caso della morte di Liliana Resinovic fa ancora parlare tutta Italia. Cosa possiamo dire di questo caso? È troppo presto per parlarne, anche perché non si sa ancora se c'è stato un delitto o meno. Siamo ancora a un punto di partenza e prima bisognerà sciogliere questo nodo. Certo, poi ci sono intorno a questa storia due personaggi quasi antagonisti che si muovono, e sembra quasi una rappresentazione, se non ci fosse il fatto che c'è comunque una persona che ha perso la vita, che è morta. Di tutti i tuoi podcast, qual è la storia che più in qualche modo ti ha segnato o che più ti ha sorpreso andando a studiarla più nel dettaglio? Se devo dire una storia, è quella delle bestie di Satana, perché è una storia che ancora adesso, a distanza di anni, fu il gruppo di ragazzi della provincia di Varese che uccisero dei coetanei, degli amici. È la storia per cui ti fai la domanda ma perché, e non sai darti una risposta, ma soprattutto non la sanno dare neanche loro. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport: la Triestina ieri al Rocco ha pareggiato 1-1 contro il Benevento nel primo turno dei play-off promozione di Serie C. L'allenatore Bordin esprime rammarico perché dopo un brillante primo tempo si è perso lo slancio. Sentiamo il suo commento post partita al microfono di Rai Sport. primo tempo abbiamo fatto una grandissima partita dove meritavamo sicuramente il doppio vantaggio per le occasioni avute. Il rammarico è quello che abbiamo perso dei palloni in uscita sul possesso nostro, abbiamo concesso appunto qualche ripartenza, specialmente il gol del pareggio. Io penso che la squadra meritasse qualcosa di più, i ragazzi meritassero qualcosa in più per quello che hanno creato. Abbiamo avuto la tegua delle portiere che sta facendo molto bene, anche se Matosevic l'ha sostituita veramente egregiamente. Abbiamo davanti una squadra fortissima, una squadra che sta facendo molto bene, che ha fatto molto bene in campionato, e quindi ci sta che ci siamo un po' abbassati, abbiamo subito un pochettino, però a parte delle cose che abbiamo concesso nel finale, io penso che insomma meritiamo un po' di più. La prossima gara che sarà sicuramente difficilissima, però devo dire che i ragazzi sono pronti, sono carichi per poter fare un'altra gara come quella di oggi, specialmente nel primo tempo. Per i 45 anni della scuola di sci alpinismo del CAI di Trieste, uno straordinario viaggio in Islanda tra cime altissime e vulcani attivi. Tra le vette più alte sulla neve polverosa e tra i vulcani che nascono e muoiono in meno di un mese, è uno straordinario viaggio con gli sci ai piedi in una terra vivissima, l'Islanda, quello svolto dalla scuola di sci alpinismo del CAI di Trieste per festeggiare il 45esimo anniversario della sua fondazione. Roberto Valenti, direttore. Abbiamo salito 9 cime, 2110 metri, sembrano pochi, ma si parte dal mare. Il Vatnajökull è il quarto ghiacciaio per massa del pianeta. E poi è stata salita un'altra bella cima, che è quella dello Snaffell, che è il vulcano da dove Jules Verne ha fatto iniziare il suo viaggio verso il centro della Terra. 25 gli istruttori che hanno partecipato alla spedizione, sempre più nutrito il gruppo di giovani under 35. Negli ultimi anni sono proprio i giovani, i sciatori, che si avvicinano a questa disciplina. Cerchiamo di farle entrare nella scuola per dare continuità a questa struttura. Non solo neve, ma anche fuoco, immortalato un vulcano appena nato. È nato il 7 di aprile, noi l'abbiamo conosciuto il 17, 10 giorni dopo, e 3-4 giorni fa mi è arrivato un post che dice che si è spento. E l'Islanda è una terra che vive, si trova in mezzo alle due placche che si stanno allargando, e da là esce praticamente il magma e lave basaltiche che allargano l'isola. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche quest'anno il Teatro Miela di Trieste festeggia il compleanno del musicista e compositore francese Erik Satie con un programma di concerti e di mostre a partire dalle 19 di stasera e fino a venerdì. Al direttore organizzativo del Miela, Francesco De Luca, abbiamo chiesto perché celebrare ancora Satie a quasi 100 anni dalla morte. Satie nasce al Teatro Miela, appunto ad opera di Rosella Pisciotta, che nel 2017 ci ha lasciato, ed è diventata una delle maggiori e più significative, attrattive e bizzarre che il Teatro Miela abbia mai potuto realizzare. C'è stata da sempre questa volontà di voler mantenere in atto questo programma legato al compleanno di Erik Satie, e lo abbiamo trasformato anche in Satie Rose, proprio per fare questo binomio Erik Satie e Rosella Pisciotta, che è stata la fondatrice fondamentalmente del Teatro Miela. Qual è il valore, la posizione di Satie nel panorama musicale internazionale oggi? La musica di Erik Satie, di questo compositore francese, è interminabile, nel senso che c'è sempre e ci sono sempre tantissimi artisti che continuano a ruotare intorno a questo mondo, che sicuramente via via col passare degli anni si accresce sempre più. Infatti, come può notare, a volte ci sono pezzi di Erik Satie che si suonano nei film anche di autori, anche addirittura nelle pubblicità televisive, eccetera. Diciamo che questo genio, forse addirittura incompreso ma bizzarro, continua ancora a lasciare delle tracce indelebili, e quindi secondo me anche a livello internazionale l'opera di questo personaggio eclettico, stranissimo, continua ad essere sempre più seguita. Ancora a teatro, Teo Teocoli con il suo spettacolo A tutto Teo sarà al Teatro Verdi di Gorizia. Il comico pugliese, accompagnato da musica e cabaret, racconterà aneddoti della sua vita artistica, dall'inizio della carriera come cantante al proseguimento come comico e showman in trasmissioni televisive come Mai dire gol, Scherzi a parte e Quelli che il calcio. Ci saranno monologhi e imitazioni e i suoi personaggi più originali come Caccamo e Celentano. Teocoli non avrà una scaletta, ma si affiderà all'ispirazione del momento. Sipario si alza alle 20.45. E per la rassegna Incontri con l'autore a Manzano nei Boschetti del Torre alle 18, Il re delle fate d'autunno di Claudio Chiaverotti e Pierluigi Porazzi. Sono le 12.54 minuti e 30 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Bruno Montevecchi e da Walter Bidonis. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Livia Liberatore e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.